9 parole in fila, la destinazione con l'ima con l'inizio. Parto dal capo, non stendo frasi, sono rime che pongono basi per un nuovo progetto. Ma prima farò più o meno come l'Apo, tirerò una riga. Ma sul passato non sono un architetto, anche se ho dato vita a qualche complesso in questo cranio. Voglio lasciare una firma, un segno su firma metro, ma ci separano infiniti metri. Cara legge di gravità ti avrei infranto, ma non ti hanno scritto sopra i vetri. Sotto tuo peso mi infrango come un reschi, avevo delle sue emozioni. Cammino su scacchiere d'asfalto, vedrà per strada pedoni, mi attassi il braccio del cobalto. Sale più soleggiato sulla faccia, ecco delle stelle, verso dentro idee scritte sulla pelle. Cerco spazio e fredda verso dentro i resti, l'altro giorno morto dentro troppi gesti. Aria vento, fiate tempo, mentre resto fermo sento aria vento, tanto tempo e il respiro si fa lento, lento. Dove sono, dove sei? Sarà il vento. Resto io tra le nuvole, dove il tempo non ha regole. Resto qui tra le nuvole, alto il giorno non sa scegliere. Mettiti di un cuore che ora sa. Celeste è una favola, vela mai nate, ali mai nate, grida il mio nome per farmi volare. Verba avanti, DNA, geni senza anfora, cioè geni senza fissa dimora. 21 grammi di anima, più 21 kg di sguagli sulla bilancia. Porta una mano pesanti nella scrittura, solo chi sulla pagina. È dura persino salire la scala più alta del pentagramma. Chiave di violino, apri questa gabbia toracica, libera sto peso dal cartogramma. Appena scappa, scrivo con cuore, sono incompreso perché il mondo non insegna cardiogrammatica. Aria vento, fiate tempo, mentre resto fermo sento aria vento, canto tempo e il respiro si fa lento, lento. Dove sono, dove sei? Sarà il vento. Sole chiamo sulla faccia, ecco delle